Continuano le trasmissioni in diretta su Radio Blackout, cambio di postazione qui negli studios, ai microfoni di Interferenze, quest'oggi Daniela e Francesca a tenervi compagnia per un'oretta fino alle 17 e insomma cercare di smorzare un po' il grigio di questa domenica torinese. Se oltre ad ascoltarci volete partecipare un po' più attivamente, vi lasciamo i nostri contatti per interagire qui con Radio Blackout, che sono 011 2495 669 il numero di telefono fisso e 346-6673-263 il numero di cellulare. E come al solito, prima di iniziare, un po' di spazio anche alla musica. Quest'oggi vi presentiamo una giovane artista, si chiama Azealia Banks, è nata nel 1991 a New York ed è una rapper statunitense che ha iniziato la sua carriera musicale nel 2011 sotto un altro pseudonimo. Inizialmente si presentò sulle scene come Miss Banks e dopo un paio d'anni insomma ha continuato la sua carriera con questo cambio di nome e, quindi vi facciamo ascoltare un suo primo pezzo che si intitola 1991, scusate, e successivamente vi proporremo altri suoi brani. Buon ascolto. Cool friends do what they meant for. Wanna taste the pastry, chocolate croissant. This small with the bitch cat that you eat. Who ain't who, nigga? Bad friends, what? Who are you, nigga? Ha ha ha. Miss one, miss young, miss two, be pop. Young movie, young coochie tight. Young Lucy, young Uzi Mike. Ride a tat, tat, tat, nick, nack, titty, pat, pat, pat. Silly cat, you gon' pat this trash. How you do that, do that, do that, that, that. 1991, my time is come. 099, my young time is done. People down on my mind like a virgin. I've been just my flight, don't lie, virgin. I sell you why, that's my virgin. Mommy, tie these rhymes, it's my princess. Owe me your mind, looking out for this. Pyramid, one eye on my assets. Here it is, no copy, my progress. For the younger, wanna do with the weed. You wanna do with the weed. To get the brands in a hundred, then you shoot with the weed. Put the brands in a hundred, then you lose the weed. Hot glass, no food, and it was sweet. Little game, no food, and you miss it. Give me the gym or the juice, I know the shit. I make this motherfucker never do it for free. Young killer, fuck it, what I got. No one's doing nothing in my league. Young killer, make it to them, young killer, what I got in my league. Young killer, make it to them, young killer, what I got in my league. Every rap, bitch, I got it to the key. I'm sipping on this, I'm gonna see that. You gonna be a bitch, nigga, I'm gonna be that bitch. You want me a bitch, nigga, I'ma be that bitch, why? And I'ma be that bitch, I'ma be that shit, nigga, I'ma be that bitch, why? Come around, let the little baby run it down, run it down. Sipping belly, sipping champagne on the L. My team of Benoni, baby, pass it on your down. Mexican and honey, no cougars in the house. I'ma hush the rumors in the doubt. Came in the game with a beat and a bounce. Never for the fame, my feet on the ground. Crowd number nine, headed to the stars. Maybe I ride with my mic and my bra. Maybe I recite in the raw. The appetite for life and the hunger for the raw. The adrenaline, the war in New York. City double numbers, I would know a dream and never sleep in the hundreds. Hoping with the dream and the bundles. Million dollar baby, you can see the dream when it's over. I'm not afraid to E allora entriamo un po' nel vivo di quella che sarà la puntata di oggi, dove insomma faremo come di consueto un po' di rassegna stampa e ci focalizzeremo invece sul contesto parigino, dove questa proposta di legge di estendere il matrimonio a tutti ha fatto sì che insomma emergesse un lato francese che sicuramente non ci piace, che è quello di un rigurgito omofobo e fascista. Infatti molti soggetti reazionari e fascisti per l'appunto sono scesi in piazza per dire no a questa proposta di legge, e insomma ci sono state da diverse settimane delle proteste, in alcuni casi anche violente, delle manifestazioni di piazza eccetera, per cui insomma ci sembra giusto dedicare uno spazio di approfondimento a questa vicenda, per cui sentiremo una compagna da Parigi e daremo insomma spazio a questa vicenda durante la trasmissione. E in chiusura vi presenteremo poi il prossimo appuntamento del ciclo di seminari What's Body che abbiamo inaugurato alcune settimane fa con l'incontro con Marco Pustianaz questo lunedì. Domani sarà la volta di un nuovo incontro, quindi più tardi vi diremo qualcosa in più. Adesso vi lasciamo ancora un po' di musica. Questo è il primo singolo di Azealia Banks con il quale si è presentata sulle scene statunitensi. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the amp up. Then when they hit that dip, get your hammer. You see, then that bitch shit the camera. And then that young sister leaking. The bitch who wants you to be. And I can freak to that pump with the heat. And you know what the bitch become when I'm eating. I just wanna sit that punch with the heat. And sit in that lunch that you're eating. Take a bitch who come from the region. You know what the bitch went from in the region. Now she wanna sit my cup in the region. Sit in that cup, stop the region. We're gonna do major. I'm a rude bitch. What are you made of? I'ma get your food up, dude. I could bust your knee. I'm a few and two. Fuck it, gun dude. What if you make bucks? I'm a wolf right now. But you want to do fuck. Fuck, I'm like, if you want to come, you get on the cover. I'm a 212 cock. I'm drinking in the water by the blue bag. You caught the worm, dude. Think you do that, you son? Nigga, you're a Kool-Aid, dude. Fuck you, bitch, my kid. You wonder who let you come to 1-2. What you do, you son? Fuck, are you a dude, huh? Allora, per inquadrare un po' la situazione parigina di cui appunto vogliamo andare a fare un approfondimento, questa settimana si sono verificati ancora episodi di violenza, per cui un bar che notoriamente frequentato da omosessuali a Lille è stato devastato dai fascisti che hanno vigliacamente ferito due camerieri e il proprietario. Insomma, quindi continua questa escalation di violenza in vista del voto definitivo della legge che si terrà martedì prossimo. Questo pomeriggio si tiene un sit-in a Parigi prima del corteo che sarà parallelo a quello del Front de Gauche ed è già stata lanciata poi una manifestazione il 26 maggio quando la legge appunto sarà ormai votata. È curioso che anche a livello istituzionale insomma si siano verificate delle aggressioni all'interno dell'aula dove era in corso la discussione, che significativamente ha visto la riduzione dei tempi di discussione appunto per la fretta di chiudere il dibattito in corso, che è terminata di fatto all'alba di giovedì. Questo insomma ci sembra prova del fatto che comunque si stanno incontrando molte resistenze di fronte a questa legge. Insomma, ci sembra davvero interessante avere un po' un approfondimento del clima che c'è in questi giorni a Parigi, per cui dopo un pezzo musicale proveremo a metterci in contatto con questa compagna che vive a Parigi e che in questo momento è alla manifestazione. Lei è sempre Azalea Banks e questo è Bad Bitches Do It. Allora, come dicevamo prima, i microfoni di Radio Blackout, adesso dovrebbe esserci Giulia in collegamento con noi da Parigi. Sì, ciao a tutte, vi ringrazio per l'invito. E vabbè, forse come avete già detto, è una coincidenza che mi trovo a un presidio contro l'omofobia, che vabbè, poi non è neanche così tanto una coincidenza, visto che nelle ultime settimane si sono succeduti parecchi presidi, perché il clima, insomma, è divenuto sempre più teso. Infatti, giustamente vorremmo chiedere questo, di inquadrarci un attimo la situazione lì dopo questa proposta di legge, insomma, come si è evoluta un po' la situazione, quali sono state un po' le risposte. Sì, intanto vabbè, io sono qui in Francia da 6 mesi circa, quindi un po' ho seguito tutta l'evoluzione della proposta di legge, del dibattito. C'è da dire che insomma questa proposta di legge era già stata un cavallo di battaglia durante le presidenziali l'anno scorso di Hollande, quindi insomma c'era molta aspettativa. Il dibattito parlamentare è stato sì, molto lungo, duro, per esempio il passaggio all'Assemblea nazionale è stato veramente lungo, con quasi 5.000 emendamenti, una discussione di 10 giorni, una delle discussioni tra l'altro per una legge più lunga della Quinta Repubblica, insomma. E in questi mesi è stato veramente molto angosciante, perché anche Parigi e più o meno in tutte le città della Francia si sono viste parecchie obbrobbiose manifestazioni delle organizzazioni contro il mariage pour tous. Purtroppo devo dire che queste manifestazioni hanno visto una grande partecipazione e anche una radicalizzazione violenta, nel senso che all'interno di queste manifestazioni spesso queste associazioni raccolgono pezzi interi dell'estrema destra cattolica, come ad esempio la Civitas o la Jeunesse Nationale, che insomma sono organizzazioni molto pericolose, fasciste e naziste. Adesso vabbè, dopo la legge insomma è stata, mi sembra 2 settimane fa, è passata anche al Senato con alcune modifiche. Adesso martedì dovrebbe essere ridiscussa all'Assemblea nazionale, ma sembra che insomma sia vinta la battaglia. Se tengo a precisare che ad esempio, e anche oggi lo possiamo vedere insomma qui al presidio, inizialmente la legge prevedeva la PMA, la procreazione medicalmente assistita per le coppie di lesbiche, per le coppie di donne, e su questo punto il Partito Socialista ha fatto un passo indietro, quindi insomma è una legge che il Partito Socialista rivendica come la legge che crea l'uguaglianza, ma di fatto questa uguaglianza non c'è, perché le coppie eterosessuali in Francia possono accedere alla procreazione medicalmente assistita, e non si capisce perché le coppie di donne siano costrette ad andare all'estero o a ricorrere insomma ad altri metodi per avere la possibilità di avere dei figli. E, sì, il fatto che mi sono invitata a spostarmi, non capisco perché, ma boh, vabbè, rimango qua. Nelle ultime settimane la situazione vabbè, è molto semplice, ma molto brutta, perché c'è un acuirsi della violenza, vere e proprie aggressioni fisiche, verbali e anche aggressioni simboliche. Forse penso che se ne sia parlato anche in Italia. Ad esempio venerdì due adolescenti sono stati aggrediti dai compagni di scuola, da quasi un gruppo di 40 persone, perché erano sospetti di essere una coppia omosessuale. La settimana scorsa un bar a Lille è stato saccheggiato e vandalizzato, con dei feriti da un gruppo di nazi skin. Un altro bar a Bordeaux, si sono seguite atti di vandalismo verso le sedi del PD, con scritte, croci celtiche. E vabbè, forse anche un caso che penso sia arrivato anche in Italia, c'è l'aggressione di una coppia di ragazzi al Marais, e insomma questa aggressione ha fatto anche un po' di, insomma, è stata molto mediatizzata, perché vabbè, per chi conosce Parigi, il Marais è un po' il quartiere omosessuale, soprattutto maschile, un po' cool e che insomma in cui non c'erano stati problemi. Devo dire che io non seguo il dibattito televisivo, però molte amiche mi hanno riportato che i toni e le accuse sono veramente insopportabili, anche perché in qualche modo i media hanno fatto sì che hanno legittimato posizioni violente di odio, proponendole come posizioni che fanno parte del dibattito, quando voglio dire non è così. Tutte queste aggressioni sono state legittimate da parecchi esponenti dell'UMP, e per esempio con dichiarazioni da parte di esponenti o di esponenti del movimento veramente allucinanti. Tanto per dire, dopo la portavoce del Manis Putus, che sarebbe questo movimento contro il matrimonio, la settimana scorsa, dopo che Hollande aveva chiesto un'accelerazione sui tempi per l'approvazione della legge, la portavoce ha dichiarato che Hollande vuole il sangue e il sangue l'avrà, che voglio dire, a parte la pesantezza, ma che dopo le aggressioni insomma un po' pericoloso. La settimana scorsa un deputato dell'UMP ha dichiarato che con questa legge si stanno assassinando i bambini, i famosi figli della patria, anche perché devo dire che questo tema dell'adozione e dei figli è stato strumentalizzato dalla componente contro i matrimoni, come insomma potete immaginare, perché non toccate i bambini, insomma. Certo, sembra davvero, cioè, da quello che ci dici comunque sembra che il fenomeno abbia davvero una portata molto vasta e che insomma abbia fatto riemergere davvero dei rigurgiti di odio e intolleranza che non so se davvero, se neanche i francesi stessi effettivamente potessero... No, perché infatti cioè, veramente io ho avuto anche amiche che mi hanno raccontato di essere state insultate, ma moltissime le testimonianze delle ragazze francesi che conosco era di un clima allucinante che nessuno si sarebbe aspettato, insomma. Penso che insomma sia importante, cioè, perché comunque quello che sta accadendo lì penso che metta molto bene in luce quanto davvero sia importante la lotta, sia importante su queste tematiche, perché davvero comunque siamo a un livello molto, cioè, molto molto lontano dall'essere soddisfacente dal garantire insomma diritti per soggetti che non siano esclusivamente eterosessuali, insomma. Certo, no infatti è veramente questa la cosa preoccupante, anche l'inquietudine che crea, ma per dire proprio anche come io ho letto di affermazioni di deputati che sono veramente aberranti, all'apertura alla zoofilia, offese gratuite, ovviamente il parallelo omosessualità uguale pedofilia, e questo, cioè, la cosa che anche è veramente, veramente vergognosa, che si strumentalizzano veramente i bambini dicendo, perché in fondo noi non siamo omofobi, non siamo contro l'omosessualità, ma per i bambini, non toccate i bambini, per i bambini questo potrebbe essere un problema, potrebbe provocare dei problemi psicologici, quando voglio dire il problema forse non è per i bambini, è la stigmatizzazione, la condanna sociale che insomma si legge tutti i giorni sui giornali e che si sente dalle televisioni, insomma, con le dichiarazioni di questi esponenti contro. Ma Giulia, noi volevamo chiederti anche se appunto se nei prossimi giorni ci saranno degli altri momenti di piazza. In realtà oggi tra l'altro penso che martedì teoricamente dovremmo vincere, insomma dovrebbe essere votata, ed è certo che insomma la legge passerà oggi, dovrebbe essere l'ultimo, questo presidio, ma devo dire che anche il presidio di oggi non si sofferma solo sulla tematica del matrimonio, perché come ho già detto c'è questa la problematica del fatto che la PMA è stata tolta dalla legge, E quindi ad esempio anche nella piattaforma di oggi c'è esplicitato che si richiedono i diritti e l'uguaglianza, ma non solo, e questi non sono chiaramente molto importante il matrimonio, ma è anche ad esempio l'accesso gratuito per le persone transessuali alle cure, o una facilitazione del cambio di stato civile, la condanna della violenza, e soprattutto che si parla di diritti, ma è utile continuare anche una lotta proprio contro la violenza e la stigmatizzazione dei soggetti omosessuali, lesbiche e trans. Va bene. Così. Niente, noi ti ringraziamo per questa diretta. Grazie. Sicuramente ci ha dato un po' più un'idea del quadro che c'è lì in questo momento, e magari ti chiediamo, insomma, fin da adesso la disponibilità a eventualmente fare altre dirette per seguire certo. un po' gli sviluppi della situazione dopo la martedì, dopo l'approvazione della legge. Certo, ma posso dire una cosa che voglio, così, perché io sono arrivata qui, devo dire che il clima comunque è positivo, cioè un po' per il fatto che la legge verrà approvata, un po' perché c'è il sole, ma anche perché non si sottostà all'intimidazione della violenza, non si rinchiude, ma comunque si continua a lottare, a scendere in piazza, e quindi insomma devo dire che oggi è una bella giornata, nonostante tutto, cioè, si respira un'aria di forza e di... Bene, speriamo che continui in questa direzione, assolutamente. Sì, ti salutiamo, Giulia, e ti ringraziamo. Grazie ancora. A voi. Ciao. Buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao. 16:35, siete sempre in ascolto di Interferenze, arriviamo dalla diretta da Parigi in cui appunto ci siamo fatti raccontare quanto sta accadendo in queste settimane in concomitanza con l'iter di approvazione di questa legge sui matrimoni omosessuali. Insomma, quanto ci ha raccontato questa compagna è sicuramente ci testimonia di un clima molto pesante in cui appunto si sono raccolti in questa piazza parti di estrema destra ultracattolica che appunto stanno dando vita ad un'opposizione molto forte che poi ha anche delle ricadute appunto in aggressioni addirittura dentro le aule parlamentari. Insomma, questo anche quanto abbiamo letto dalla rassegna stampa che qua in Italia ha trattato un po' la vicenda. Sicuramente appunto anche quanto ci diceva alla fine ci dà sicuramente un po' di speranza nella determinazione comunque di continuare a lottare al di là dell'approvazione piuttosto certa di questa legge, ma anche appunto perché ulteriori passi in avanti vengano fatti. Insomma, quanto ci diceva Giulia, comunque questa legge è stata già in alcune parti ecco mutilata, rivista proprio anche per le pressioni che si sono levate dalla piazza, quindi sicuramente appunto una battaglia che non si fermerà con l'approvazione di martedì. E su questo volevamo insomma darvi ancora qualche nota spostandoci invece di latitudine in Nepal, una notizia che leggiamo dal blog Watts che appunto si occupa di approfondimenti di questioni diverse in nel sud del mondo. E appunto in Nepal recentemente il Ministero degli Affari Interni ha diramato questa circolare in cui rende operativa una legge che sostanzialmente istituisce la possibilità di registrarsi nei documenti con la dicitura di terzo genere per quanti appunto decidono di non essere identificati né come uomo né come donna. E questo insomma un passo in più che segue a una direttiva di qualche anno fa, del 2007, che aveva definito le persone lesbiche, gay, bisex e transgender come persone naturali e quindi ne difendeva i diritti. Quindi appunto qualche passo in avanti anche in altri paesi viene fatto, per quanto insomma in un paese come Nepal, che porta con sé anche molte altre contraddizioni per quanto riguarda insomma un paese con forti tradizioni religiose, forti problematiche insomma nella condizione femminile, però appunto questo dato sicuramente importante ci sembrava appunto interessante darlo. Mi sembra importante quanto dicevi tu, Francesca, proprio adesso, perché mette in luce il fatto che ad esempio un paese invece tradizionalmente laico e con un modello assimilazionista come quello francese stia vedendo invece emergere tutto un contesto, tutta una situazione di mobilitazione fortemente violenta e intollerante, invece a differenza del Nepal che se visto con lenti diciamo stereotipate porterebbe a pensare invece il contrario. Questo mi sembra molto interessante quando si utilizza come lente quella del genere. Penso che possa mettere anche in evidenza contraddizioni di questo tipo. Adesso vi lasciamo ancora un po' di musica, poi ci avviamo per l'ultima parte della puntata. Buon ascolto. Cambio di sonorità per questa seconda parte di Interferenze, questa è Amanda Palmer e il pezzo si intitola Map of Tasmania. I don't wanna see what I'm making you. I need something to be done. Thank you. pezzo un po' più soft di Amanda Palmer, questo con cui insomma vi accompagniamo nel post sabato sera. Facciamo ancora un cambio musicale, però questi sono i Paramore. Questo brano musicale che vogliamo farvi ascoltare si chiama Now. Siete sempre in ascolto di Interferenze su Radio Blackout. Oh, 16:49, allora ultimi 10 minuti a disposizione di Interferenze per questa settimana. Chiudiamo con la presentazione di alcuni appuntamenti. Partiamo da domani, lunedì 22, ci sarà il secondo incontro del seminario What's Body che abbiamo organizzato come laboratorio. Alcune settimane fa c'era stato un primo incontro sul tema del corpo assieme a Marco Pustinaz, che appunto ha spaziato su molti aspetti di cosa voglia dire indagare appunto il corpo, mentre domani cercheremo di scendere un po' più nello specifico, di approfondire il legame di corpi e lavoro da un punto di vista sempre di genere. Lo faremo assieme al laboratorio Smascheramenti, con cui appunto cercheremo di indagare come appunto il sistema capitalistico riesca a mettere a valore le differenze di genere. Quindi appuntamento per le 17:30 a Palazzo Nuovo, appunto con il laboratorio Smascheramenti, che ci raggiungerà da Bologna. Come l'altra volta cercheremo di proporre un primo momento per rompere il ghiaccio e condividere alcune idee poi da sviluppare nel corso del seminario, quindi l'invito ovviamente per chi è a Torino e dintorni a partecipare. E un altro appuntamento è invece organizzato dalla Verdi 15 per il ciclo Sapere in Movimento. Domani, sempre 22 aprile, alle ore 21, ci sarà la proiezione di un video che si chiama Frontiera Interna, che è di Rossella Schillaci, che è un viaggio di fatto alla scoperta di Barriera e di Milano attraverso gli occhi dei suoi abitanti. Quindi nel documentario si alternano le riprese notturne della ronda spontanea di Angelo e degli altri pensionati che vigilano per le strade, si incrociano invece con le riprese che sono state effettuate da un giovane rapper africano che racconta con la sua musica i problemi e la sua vita in Barriera di Milano, indagando anche qui gli stereotipi connessi all'immigrazione, la difficoltà di rapportarsi in un quartiere come quello di Barriera di Milano. A seguire ci sarà un dibattito e un workshop con Ferruccio Pastore, che appartiene al Forum Internazionale ed Europeo di Ricerca sull'Immigrazione, questo appunto organizzato alla Verdi 15 occupata. In chiusura andiamo anche a darvi un aggiornamento su un argomento che avevamo già trattato in precedenza qui ad Interferenze, ovvero la chiusura del corso di studi di genere all'Università di Calabria. Domani ci sarà un presidio organizzato dalle studentesse e dagli studenti, che in quell'occasione consegneranno le firme al rettore e appunto hanno indetto un presidio. Yeah. 16:56, allora siamo giunti al termine di un'altra puntata di Interferenze. Noi ci prepariamo a salutarvi e a lasciare spazio ad Animal Radio. L'appuntamento, come di consueto, è sempre per domenica prossima dalle 16 alle 17, quindi rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout che vi tiene compagnia in questa domenica. Noi vi salutiamo, ci risentiamo domenica prossima. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca. Un saluto anche da me, rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout. Vi lasciamo in compagnia della nostra sigla, poi Animal Radio.